e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno e benvenuti a voi. Oggi sono sola, quindi tenetemi compagnia. 800 24 0024, se volete mettervi in contatto con me. Deborah tornerà domani, ma se state pensando che oggi i temi di denari non ci saranno, non preoccupatevi. Prima, perché, come abbiamo visto ieri, preoccuparsi fa male al cuore, e poi perché abbiamo pensato a voi. Tra poco infatti parleremo di mutui, un tema sempre attuale. Vedremo insieme qualche novità in arrivo da una direttiva europea e poi, come sempre, risponderemo alle vostre domande con i consigli di una bravissima esperta. 800 24 0024. Ma prima di iniziare la puntata, vogliamo in America. Per l'America è arrivata l'ora della scelta, e a fare da apripista alle presidenziali e lanciare la grande giornata delle elezioni, seppur su piccolissima scala, è stato un piccolo villaggio del New Hampshire, si chiama Dixville. Come di prassi, 7 persone allo scattare della mezzanotte hanno votato, mentre un 8° elettore ha usato il voto a distanza. Per quanto voto simbolico, si sa già com'è andata: 4 preferenze per Clinton e 2 per Trump, oltre a un voto per il candidato del Partito Libertario, Gary Johnson. Su una scheda invece è stato scritto il nome di Mitt Romney, il candidato repubblicano che nel 2012 fu sconfitto da Obama. Si tratta di un risultato che, scrive la CNN Online, che incoraggerà i sostenitori di Hillary Clinton, poiché in recenti elezioni chi ha prevalso a Dixville ha poi vinto la Casa Bianca. Risultati che probabilmente Hillary Clinton non ha voluto sapere, perché scaramantica, tanto che ha affermato: non parlo con nessuno che può sapere come sta andando il voto anticipato perché sono superstiziosa. E a proposito di scaramanzia e di superstizione, anche voi avete i vostri riti quando dovete affrontare un appuntamento importante? Allora raccontateceli al 349-238-6666, ma partiamo con la nostra puntata. Allora, in apertura vi segnalo che oggi in edicola, con il Sole, un volume della collana I tuoi diritti, interamente dedicato alla tutela per i consumatori quando si parla di acquisti di prodotti, di attivazioni di servizi, ad esempio telefonia, gas, luce, eccetera eccetera, o nel caso di acquisti di servizi di viaggio. Potete quindi trovare tanti consigli utili per essere consumatori sempre più consapevoli. E su questi temi, che sono tutti importanti e cari, lo sapete, a cuore denari, torneremo naturalmente a parlare presto, nelle prossime puntate, insieme a Deborah. Ma ora, a proposito di temi di denari e di temi che ci stanno particolarmente a cuore, andiamo a parlare di mutui. Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo, ho acceso, aiuto, aiuto. Il mutuo è sempre un tema di grande attualità in tutte le fasi dell'economia, e di alti e bassi se ne vedono tanti. L'acquisto della casa infatti resta sempre un tema molto molto sentito, ancora più attuale in questi giorni di novembre, perché proprio a partire da questo mese sono entrate in vigore novità che regolano alcuni aspetti della stipula di un mutuo. Le novità sono introdotte da una direttiva europea e le commenteremo stamattina, come anticipato, insieme ad una grande esperta. È tornata a trovarci Anna Vizzari, buongiorno. Buongiorno. Ufficio Studi Economici Giuridici di Altro Consumo. Allora, oltre ad aggiornarvi sulle novità, però torneremo naturalmente a darvi tutti i consigli per gestire al meglio la scelta del mutuo per l'acquisto di casa, oppure la surroga, il cambiamento delle condizioni del mutuo per chi lo desidera, naturalmente migliorare questo il proprio mutuo. Allora, quindi vi invitiamo a prenotarvi con le vostre domande, raccontateci anche le vostre storie. 800 24 0024, raccontateci se state pensando ad un mutuo per comprare casa, se state girando di banca in banca valutando, che so, le diverse condizioni che gli istituti vi propongono, se c'è qualcosa che non vi è chiaro, non vi convince, vi crea dubbi, vi viene chiesto ad esempio di sottoscrivere una polizza vita, di aprire un conto con una certa banca come condizione proprio per poter accedere il mutuo a quell'istituto. Allora raccontatecelo, diteci anche però se siete soddisfatti delle condizioni del vostro mutuo o se invece vi piacerebbe cambiare qualcosa. Avete già provato a chiedere, che so, la surroga? Allora, Anna Vizzari, partiamo però con le novità in arrivo da questa normativa europea. Cerchiamo di capire cosa potrebbe cambiare per i consumatori. La prima è l'introduzione di un nuovo documento che, insieme al foglio informativo, mette nero su bianco le condizioni della proposta. Le novità è che questo strumento vincola un po' la banca a darci 7 giorni per pensare dal momento in cui lo riceviamo. Ci racconta però per bene di che cosa si tratta? Sì, certo. Questo nuovo foglietto si chiama PIEF ed è l'acronimo di Prospetto Informativo Europeo Standardizzato e sostanzialmente è un foglietto informativo personalizzato rispetto alle richieste che il cliente, specifiche che il cliente fa alla banca, quindi riporta le condizioni del mutuo per lo specifico importo richiesto dal cliente, la durata che ha scelto, la tipologia di tasso di interesse e dettaglia ovviamente anche la necessità per esempio di avere per esempio una polizza vita che non deve essere necessariamente quella venduta dalla banca oppure indica quali sono i rischi per il cliente nel caso in cui paghi in ritardo una rata. Ed è molto importante, come appunto ha detto già anche lei, il fatto che è vincolante per la banca, cioè una volta stampato questo foglietto impone alla banca di proporre quell'offerta per almeno 7 giorni al cliente. Quindi il cliente può portarsi sostanzialmente le condizioni del foglietto, il foglietto a casa, può leggerlo. Leggersele, se non capisce qualcosa, chiedere informazioni. Sì, certo, e a quel punto ha la certezza che una volta ritornato in banca quella proposta è ancora valida e sarà quella l'offerta che sottoscriverà davanti poi al notaio con l'atto di mutuo. Quindi è questo sicuramente un passo in avanti importante perché già in fase precontrattuale il cliente avrà la possibilità di conoscere bene quello che andrà poi a sottoscrivere. Anna Vizzari, è chiaro questo foglietto? È un po' ancora tradetto ai lavori? No, io ho visto il foglietto, sostanzialmente è un foglietto che Banca d'Italia ha emanato qualche giorno fa e che deve essere identico in tutte le banche, quindi anche questo è un vantaggio, nel senso che le informazioni saranno riportate nello stesso modo in tutte le banche. Ed è abbastanza chiaro, certo, poi il linguaggio, alcuni tecnicismi ci sono. Rimangono, il linguaggio, probabilmente lavorare sul linguaggio è quello che manca ancora, bisognerebbe appunto lavorare di più. L'abbiamo fatto un po' sul medichese, tocca farlo anche su questo aspetto qua. Sì. Certo. Comunque Anna Vizzari è uno strumento che ci tutela, nessuno potrà metterci fretta, dirci devi decidere subito, prendere o lasciare. No, infatti questo da questo punto di vista è sicuramente un passo in avanti e riguarda poi non soltanto, ricordiamo che già sul mercato esisteva l'ESIS, no? Che era un foglietto anche standardizzato e personalizzato per il cliente, ma era legato soprattutto all'acquisto al mutuo erogato per l'acquisto dell'abitazione principale. In questo caso si tratta di un foglietto standardizzato e personalizzato valido per qualsiasi tipologia di mutuo, quindi anche per l'acquisto per esempio di una seconda casa, per la surroga, per anche credito immobiliare non garantito da ipoteca, quindi comunque un'informativa precontrattuale più ampia che garantisce maggiormente il cliente. C'è qualche cosa che non va, mi permetto di dire. Brava, perché siamo qua apposta esatto, a fare un po' le pulci. Certo. Non è poi una questione di pulci, perché questa è comunque una cosa abbastanza grossa, nel senso che allegato al PIEF ci sarà il piano di ammortamento del mutuo, quindi sostanzialmente una tabella in cui vengono riportate le rate, gli interessi e il capitale da pagare ad ogni scadenza. Fatto sta che però è obbligatorio soltanto per i mutui a tasso fisso, cioè i mutui che avranno un tasso di interesse costante per tutta la durata del mutuo, non ci sarà per i mutui a tasso variabile e per quelli a tasso misto. Allora, a nostro avviso sicuramente è un po' una informazione mancante, perché è vero che il piano di ammortamento per questi mutui cambia, cioè nel senso quello che viene stampato al momento della stipula, quindi al momento della stampa del PS è quello di quella data, perché ovviamente e può cambiare nel tempo, certo. Però comunque dà delle indicazioni di massima su quello che può succedere alla scadenza. Noi infatti avevamo proposto delle simulazioni, quindi far capire al cliente con diversi piani di ammortamento cosa succede se il tasso di interesse cresce o diminuisce nel corso del tempo, ma è stato deciso sostanzialmente di eliminare totalmente il piano di ammortamento, quindi questa è un po' una mancanza dal nostro punto di vista. E chiediamo anche il parere dei nostri ascoltatori, 800240024, ci sono anche altre novità importanti che arrivano da questa normativa europea che riguardano il profilo e anche la qualifica di chi ci propone un mutuo, ne parleremo subito dopo le informazioni sul traffico. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Cuore e Denari. Il mutuo è quando chiedi soldi alla banca. E come funzionare? Come funzionare? Ancora? Ve l'ho già spiegato. Allora, se tu volere i soldi dalla banca, loro dare i soldi e fare un piacere a te, e quei soldi valere 7-8%. Se tu invece avere i tuoi soldi e mettere in banca in conto corrente, fare un piacere alla banca, ma non si sa perché, a quel punto i soldi valere 1-1,5%. Ma allora, e se vuoi il terzo mondo? E noi continuiamo a parlare di mutuo qui a Cuore Denari, sempre con noi Anna Vizzari di Altro Consumo. Dottoressa Vizzari? Sì. Eccoci qua. È un tema questo che è sempre di grande attualità, non solo per la nuova direttiva europea che stiamo commentando con Nan Vizzari, di cui continueremo a parlare. Voglio darvi anche qualche numero, sono proprio di qualche giorno fa i dati Istat che attestano un boom di compravendite immobiliari nel secondo trimestre 2016, un più 20,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, complice anche i tassi di interesse che sono particolarmente bassi e che rendono molto favorevoli proprio le condizioni dei mutui. Anche qualche curiosità, quasi la metà degli acquirenti una casa oggi in Italia è single. E ciò che emerge dai dati raccolti da Tecnocasa, le compravendite realizzate nel primo semestre hanno visto nel 45,8% dei casi acquirenti single. Tra le coppie invece che decidono di comprare, la tipologia di casa preferita dagli italiani resta l'appartamento trilocale, sempre secondo dati Tecnocasa. Insomma, né troppo piccolo né troppo grande e con una stanza per i bambini. Allora, dottoressa Vizzari, altre regole importanti, come dicevamo, che arrivano da questa normativa europea che stiamo commentando, riguardano il profilo e la qualifica di chi ci propone un mutuo, del consulente che assiste il consumatore allo sportello. Insomma, il tema, lo sappiamo, è delicato e attuale perché sono tante le storie che sentiamo di consulenti, istituti bancari che propongono a clienti che si affidano un po' ciecamente, senza tanta consapevolezza, qualcosa che poi non conoscono bene o non sono in grado di sostenere. Ci sono anche dei nuovi requisiti più severi, direi, e noi consumatori soprattutto, quando come facciamo a verificare, a capire di avere di fronte un professionista serio? Allora, più che il consumatore, diciamo che la serietà e la correttezza professionale del consulente dovrebbe essere verificata dalla banca, dall'intermediario del credito e dalle autorità di controllo. Quindi in realtà il cliente che entra in banca dovrebbe avere la certezza di avere di fronte un consulente preparato. E le nuove norme dovrebbero servire proprio a questo, perché sostanzialmente dicono, cioè precisano ancora di più sulla carta perlomeno, che il consulente deve fare l'interesse del cliente, quindi deve essere sufficiente, deve avere degli elevati livelli di conoscenza della normativa, non soltanto del credito ma anche di tutela dei consumatori, deve essere preparato sui prodotti che vende, deve spiegare bene il prodotto al cliente e tutto questo viene a essere verificato in maniera puntuale, perché Banca d'Italia individua proprio delle caratteristiche che il consulente deve avere per poter appunto avere questi elevati livelli di conoscenza. Quindi cosa si dice? Dobbiamo sperare che quindi che Banca d'Italia faccia le cose per bene. Faccia dei controlli, ecco. Come al solito, perché come al solito se le norme scritte anche benissimo non valgono nulla se non sono poi controllate, e su questo purtroppo sappiamo che nel corso del tempo abbiamo avuto anche degli esempi un po' negativi. Però vabbè, noi siamo ottimisti e speriamo che succeda, che diciamo che tutto vada bene, ecco. Comunque diciamo che sulla carta fino al 21 marzo 2019 il consulente che ha un'esperienza di almeno 2 anni nella vendita dei prodotti creditizi, quindi di mutui, è considerato competente, quindi è a regola. Però dal 21 marzo 2019 le regole diventano più stringenti, perché tutti devono superare un test per poter essere considerati appunto adeguatamente formati. Allora, quindi dal 2019 ci accontentiamo dell'esperienza acquisita sul campo. E poi dopo verrà verificata con un test. Speriamo. Allora, intanto diamo spazio alle telefonate dei nostri ascoltatori. Abbiamo Fabiola da Roma e Simona da Roma. Iniziamo con Fabiola. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno alla dottoressa. Dunque, io ho diciamo firmato proprio stamane una rinegoziazione di un tasso sì. con la mia banca. Insomma, in realtà quello che io mi chiedo sempre è ma perché ci devono mettere vicino questa assicurazione buttata un po' lì, che però dall'altra parte insomma ti obbliga in un certo modo ad avere a firmare. Fabiola, mi sembra che la sua domanda sia chiara. Anna Vizzari, e poi andiamo a Simona da Roma. Sì, diciamo che si collega benissimo a quello che diciamo prima sui controlli delle autorità. Qui c'è una regola ben chiara che dice che la banca non può imporre al cliente di acquistare una polizza vita se appunto gli concede una rinegoziazione o una concessione di mutuo. Quindi la norma è chiara, si tratta di una pratica scorretta anche secondo il codice del consumo. Purtroppo le banche diciamo che utilizzano la loro posizione di potere in questo caso, perché il cliente si reca in banca per rinegoziare il tasso e pur di ottenere la rinegoziazione è costretto ad assecondare la richiesta della banca. Quindi penso che sia successo la stessa cosa Esatto. Che cosa si può fare? C'è una regola che comunque dà la possibilità di recedere dalla polizza vita senza alcun costo entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Quindi volendo ci si può tutelare in questo caso, nel caso di Fabiola, in questo modo. Quindi se anche si è sottoscritta la polizza si può recedere. Anche Capire che la rinegoziazione è stata già fatta, quindi la banca non può tornare indietro. Rapidamente Simona da Roma, e nel caso poi chiediamo a Simona di scriverci. Simona, riesce? Ha chiesto una surroga, giusto? Sì, buongiorno. Ho chiesto una surroga e incredibilmente da aprile scorso che la banca che ha erogato il mutuo originario non collabora con la nuova banca che mi dovrebbe fare la surroga. Allora, visto che si parla di tutela dei cittadini, vorrei capire come ci si difende da questo. Se è corretta una situazione del genere. Dottoressa Vizzari, in un minuto riesce a dare delle indicazioni? Grazie. Posso dire che non è corretto, nel senso che la surroga deve essere realizzata se la nuova banca è d'accordo entro 30 giorni dalla richiesta dei conteggi istintivi. La vecchia banca non si può assolutamente opporre a dare i conteggi istintivi. E quindi in realtà come ci si tutela in questo caso? Per fare la surroga bisogna avere i conteggi istintivi, quindi le due banche dovrebbero colloquiare tra di loro. Mi sembra di capire che così non questo non succede. Cosa può fare Simona? L'unica cosa è fare una segnalazione all'antitrust per pratica scorretta della vecchia banca, perché purtroppo la surroga non è proprio neanche iniziata. Se fosse iniziata e ci fosse stato un ritardo, c'è la possibilità di chiedere un indennizzo alla vecchia banca che paga all'1% del capitale residuo del mutuo per ogni mese di ritardo. Quindi si tratta anche di un indennizzo abbastanza consistente. Però non è questo il caso, perché la surroga non è neppure iniziata. Quindi l'unica cosa che consiglio di fare è una segnalazione ad antitrust per pratica scorretta. Simona, se ha bisogno ci scrive cuoredenari@radio24.it. Io ringrazio Anna Vizzari per la sua chiarezza, grazie. Grazie a voi. Ci sentiamo prossimamente insieme a Deborah, che tornerà domani. Noi andiamo a sentire che cosa succede nelle notizie del nostro GR. Torniamo subito dopo insieme, andiamo in Danimarca, non per comprare casa, ma per scoprire la ricetta della felicità. Sembra sia lì. A tra poco. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Il segnale orario vi è offerto da... Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da... Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. cuore e denari. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Filippa Oreggi mi sta dicendo nell'interfono, non è che mettendo musica recente sei più giovane, ma in effetti questa musica recente, che in realtà è dei Lucas Graham, caro Filippo, è vero, a me piace molto, è recente, mi piace, è un gruppo danese che sta scalando le classifiche mondiali e me lo ha suggerito Laura Vanossi perché in Danimarca voglio portarvi. E credo, io non ci sono mai stata, ma credo valga la pena farci un salto, se non altro per trovarsi nelle condizioni, o meglio nel posto giusto, per incontrare, sperimentare, respirare la felicità. Da 40 anni questo paese domina il World Happiness Report, che è la classifica dei paesi più felici delle Nazioni Unite. L'Italia è al 50° posto su una classifica di 156 paesi. E quindi ho pensato, meglio attrezzarci, rimontare la china. Non sarà, immagino, un gioco da ragazzi, ma, come si dice, non abbiamo nulla da perderci a provarci. Tanto più che abbiamo una direzione, anzi un metodo. Si chiama per l'appunto Metodo Danese per crescere bambini felici. È ideato da Jessica Joel Alexander, che è una giornalista americana specializzata in psicologia, mamma, sposata con un danese, e così ve lo leggo, non so il danese, non so come si pronunci, ve lo leggo come è scritto, Iben Dissing Sandal, che è una psicoterapeuta danese, anche lei, con figli da crescere. Bene, queste due donne hanno scritto un libro in cui raccontano, un manuale in cui raccontano il segreto della felicità e spiegano perché la Danimarca è la nazione più felice del mondo. Bene, sarebbe l'educazione dei figli. Sembra che lo stile genitoriale e il progetto educativo di mamma e papà sia proprio improntato a rendere i propri figli felici, e in questo modo la felicità diventa un dono che di generazione in generazione si tramanda. Il metodo danese per crescere bambini felici è stato appena pubblicato da Newton Compton, è diventato un best seller anche da noi, e perché insegna anche a chi non è danese il segreto di tanta felicità. E qua in studio con noi è tornato a trovarci Alberto Pellai, medico psicoterapeuta, ricercatore all'Università di Milano, che ha letto il libro e che lo commenta insieme a noi. Grazie Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, è diventato un bestseller pazzesco, sta sbancando. Qual è il segreto? Perché ci sono tanti manuali e poi qualcuno improvvisamente cattura l'interesse, l'attenzione, la curiosità. Ma direi che il libro è scritto davvero molto bene, di facile comprensibilità, permette a noi genitori di identificarci con, perché è stato scritto dalle due autrici, che sono effettivamente esperte del settore, ma sono anche mamme, e quindi c'è un continuo rimando tra la propria dimensione professionale e la propria dimensione personale. Credo poi che la forza del libro sia davvero quella di aver osservato che cosa succede nelle famiglie in Danimarca, nella relazione tra mamma e papà e i propri bambini, e aver identificato degli ingredienti che potremmo dire sono un po' la formula della felicità, una ricetta, no? Tutti gli ingredienti per fare la torta giusta e proporli. Te la mettono già in confezione, sì, già dosata anche. Ti li propongono uno per uno e ti permettono un po' di fare anche una sorta di controllo, di autoverifica di come sta andando nella tua vita personale, nella tua famiglia con i tuoi bambini. Ci sono proprio 6 voci che sono le voci alla base del metodo educativo nella famiglia danese, probabilmente la chiave per il successo e per la felicità, e ognuna di queste 6 voci viene poi spiegata e declinata con modalità molto pratiche e concrete. 800 24 0024, allora, una puntata dedicata a tutte le persone che vogliono interrogarsi sulla felicità, è una domanda antica quanto il mondo, e quindi a voi che ci ascoltate chiediamo se vi è capitato di riflettere quale posto ha la felicità nel vostro progetto educativo. Ma non tutti siamo genitori, ma tutti siamo stati figli, e quindi ritorniamo indietro nel tempo quando eravamo bambini. Oppure raccontateci se avete ricordi di lezioni di felicità che qualche adulto ha messo nella vostra vita, e che lezioni di felicità proponete ai vostri figli, ma anche ai vostri colleghi, al vostro partner, perché la felicità si tramanda, no? È contagiosa, Alberto. Allora, ci hai anticipato che c'è una sorta di formula delle felicità che è nascosta nell'acronimo PARENT, che le autrici proprio utilizzano per condensare in sei parole, in sei concetti, le strategie educative usate in Danimarca. Noi vogliamo un po' rivederle ad una e abbiamo realizzato una specie di gioco. Per ogni parola del metodo danese vi forniamo un breve stimolo proprio per visualizzarla e poi la approfondiamo insieme ad Alberto Pellai. Intanto 800 24 00 24, dateci anche la vostra formula di felicità. Dormire, salutare. Filippa Oreggi mi guarda e dice: questa è più tua. Beh, ero piccola anch'io, qua. Allora, gioca giù. Il primo mitico gioca giù di Cecchetto, che usiamo per parlare della P come play, ovvero l'importanza del gioco. Beh, anche i nostri bambini giocano, Alberto. Guarda, il primo capitolo è proprio dedicato al gioco e in realtà viene raccontato il gioco per come davvero dovrebbe essere nella vita di chi sta crescendo, cioè un gioco libero ed è strutturato. La prima riflessione che le autrici fanno fare a noi genitori è questo: abbiamo riempito la vita dei nostri figli con un sacco di cose che loro devono performare. Vogliamo dei figli che sappiano un sacco di cose, sappiano fare un sacco di cose, sono iscritti magari a tantissimi corsi, ma dentro a questa ansia del saper fare spesso si perde un po' invece l'ansia del saper essere. Loro raccontano che il gioco destrutturato, il gioco nel parco, arrivi lì dopo la scuola e si sta un'ora insieme ad altri bambini, la mamma, il papà o hanno proprio la possibilità in Danimarca di scegliere questi giochi liberi e dopo stanno lì seduti scolastico. Su una panchina e parlano fra di loro. E il valore reale del gioco è non solo che è un metodo fantastico questo per sintonizzare il corpo e la mente quando non c'è da performare, ma proprio da muoversi in un territorio, andare su uno scivolo, scalare magari una gabbia, mettersi su una scala, eccetera eccetera. L'altro aspetto è che nel gioco tu alleni tantissimo nella quotidianità e nella normalità le competenze prosociali, cioè ti devi mettere in relazione con altri bambini, in quindi situazioni è una reali, palestra, una palestra il gioco. Ma anche i nostri bambini giocano. Tu pensi che l'agenda dei nostri bambini sia troppo affollata di impegni prestabiliti, la lezione di nuoto, la lezione di calcetto? Ma direi, quindi io non penso niente, nel senso che potremmo usare questi suggerimenti di oggi nella direzione di proviamo ad autoverificare quanto queste voci sono presenti e rispettate nelle vite dei nostri figli. Può essere proprio anche il gioco in cortile, può essere il gioco nel giardino. Allora, pensate al gioco dei vostri figli, dei vostri bambini, anche i giochi che facevamo noi, che quando eravamo piccoli erano pomeriggi più improntati al gioco libero. Pensa che proprio, gioco loro organizzato. Raccontano nel libro il nascondino, che gioco incredibile è, per esempio, rispetto anche alla gestione delle emozioni, rimanere lì nascosto in un angolino. A me veniva sempre da ridere, mi beccavano sempre. Ho due figli di 15 e 17 anni, è tardi per leggere questo libro, ci scrive un ascoltatore. No, perché il libro in realtà parla effettivamente più di prima e seconda infanzia, ma dà un sacco di indicazioni che sono molto utili anche per gli adulti. Preadolescenza, adolescenza. Per favore, la Danimarca felice, ci scrive Anna. Mia cuginetta, di recente ospite di danesi, ha visto adolescenti bere alcolici davanti a un PC perché annoiati. Questo è quello che ci racconta Anna. Ma noi non sappiamo se questa è un'eccezione che conferma la regola. In questo momento possiamo proprio dire un aspetto importante del libro è che una delle due autrici è americana e quindi ha avuto la possibilità, arrivando in Danimarca, di fare proprio una comparazione tra il metodo educativo nel quale lei era cresciuta e il metodo educativo che invece è stato proposto. Però adesso vive in Italia. E adesso vive in Italia. Quindi tra l'altro ha tante possibilità. Allora proseguiamo a when Jesus wore, oh, when he wore, when Jesus wore, washed my sins away. Siamo Siamo alla lettera A di autenticità, fare i complimenti e dare lodi veritiere. Ma è difficile questo, perché noi mamme, appena vediamo il nostro bambino che fa qualcosa di bello, ci viene... siamo troppo contenti, ma sei il migliore. Oppure possiamo anche però cadere nell'errore opposto, non essere mai abbastanza soddisfatti, contenti, non riuscire a dare la giusta restituzione. La chiamate così, vero? Sì, diamo proprio queste due indicazioni. Un consiglio che emerge su questa voce all'interno del metodo danese è che le lodi sono molto molto importanti, non devono essere esagerate, non devono essere gratuite, non devono essere sperticate, e sono molto più efficaci nel metodo educativo quando non sottolineano il risultato raggiunto, ma sottolineano il percorso per raggiungere il risultato. Ti stai impegnando molto, ti stai dando allora, veramente molto da fare. Facciamo un esempio: il bambino fa un disegno, è piccolo e fa uno sgorbio. Noi con gli occhi della mamma diciamo: ma che bello questo disegno, e qua chi c'è? La mamma, e qua chi c'è? Guarda, c'è anche il cagnolino, e c'è tuo fratello, ma come l'hai fatto bene? Invece, ecco. Invece se abbiamo la percezione che è uno sgorbio, possiamo dire: guarda, l'hai fatto molto in fretta, che ne dici se proviamo a rifare tutto questo curando molto di più i particolari? Per esempio, hai voglia di impegnarti un po' di più e di rimetterti in gioco su questo obiettivo? E penso che il messaggio che ci sta dietro è che non tutto deve essere falsamente considerato un capolavoro. Il bambino stesso ne ha la percezione. Se ci mette davanti un capolavoro e se ci mette davanti uno sgorbio e riceve esattamente la stessa identica restituzione, è chiaro che quello che entra in crisi è la restituzione e chi gliela sta dicendo. Ma allora qualsiasi cosa faccio io sarò sempre un genio. E invece sottolineare proprio: ti sei davvero impegnato, hai fatto una cosa incredibile, perché ci hai veramente messo tutto te stesso. Quando fa quella cosa significa rinforzare. Cosa vi dicevano quando facevate gli sgorbi? vi facevano i complimenti o vi facevano notare che eravate poco portati, ecco, per il disegno? Andrea ci scrive: non è per caso che i danesi si accontentano di più di cose semplici, mentre noi italiani siamo abituati a lamentarci, a fare i capricci per ogni cosa? Andiamo da Claudio, anche, che ci chiama all'800240024 da Monza, e poi ci restano altre lettere, la R, la E, la N, ne abbiamo. Claudio, buongiorno. Buongiorno a voi e complimenti, perché è una trasmissione che seguo tantissimo e mi piace molto. Per quanto riguarda quello che è stato detto finora, sono d'accordo con l'esperto in studio. Certamente per un genitore non è facile riuscire ad essere anche educatore, non so se mi spiego. Però ecco, una cosa che mi piaceva sottolineare è che dalla mia esperienza posso dire che la felicità è sinonimo sicuramente di serenità. Quindi finché c'è serenità in una famiglia, la felicità, diciamo così, viene da sé. Noi per esempio con mia moglie, l'esperienza di cui posso dire è che nonostante si arrivasse a casa stanchi dal lavoro, la sera, ecco, ci dedicavamo almeno un paio d'ore con loro proprio a giocare, ad inventare giochi. Siamo stati fortunati, forse perché all'epoca non c'erano tutte queste aggeggi elettronici infernali, però diciamo così che ha funzionato, Claudio. Sì, ha funzionato sicuramente. Quindi se dovesse scrivere lei il nuovo bestseller sull'educazione, non il metodo danese ma il metodo secondo Claudio da Monza Brianza, metterebbe anche lei come primo appuntamento il gioco. Il gioco, assolutamente. Il gioco dove il genitore non deve intervenire drasticamente, ma deve, come dire, creare una sorta di coordinamento. Sì, ecco, accompagnare. Tra l'altro, nel libro ho letto, Alberto, che dicono che non c'è un verbo in italiano che traduca il genitore, mentre c'è in inglese, to parent, giusto? Esatto, infatti. Mentre è come amare. E quindi anche noi abbiamo già questa difficoltà. Genitoriare non va bene. Funziona. Amare da genitori, educare da genitori. Andiamo alla prossima lettera, la P. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché siete stati, non siete stati attenti, perché io vi ho fatto uno scherzetto, no, mi sono sbagliata, ho avuto troppi pochi complimenti da piccola. Noi ritorniamo indietro, scusate, avevamo fatto la dobbiamo ritornare alla R, no? Sì, la parent, quindi andiamo alla R. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e perché son vivo. R come reframing, in italiano potremmo dire, Alberto, riformulazione, cioè segui sempre il pensiero positivo. È così, Alberto? È facile dirlo, non è tanto facile farlo. Allora, è un po' la regola dell'ottimismo, del bicchiere, il bicchiere mezzo pieno può essere per alcuni un bicchiere mezzo vuoto, e in realtà la modalità con cui scegliamo di narrare gli eventi, le parole che utilizziamo per sottolineare alcuni aspetti della nostra vita e della nostra quotidianità, costruiscono proprio un'attitudine positiva verso il mondo e la vita, oppure un'attitudine negativa, a volte anche verso noi stessi. Provate proprio a riflettere, magari abbinandovi alla voce precedente che abbiamo appena dato, quante volte tornavamo a casa magari contenti di quello che avevamo fatto e la restituzione era costantemente: non hai fatto abbastanza, potresti fare ancora di più, potresti essere il migliore. Questo approccio, dove invece che sottolineare la competenza messa in gioco e il risultato raggiunto, la focalizzazione del genitore è sempre su quel pezzetto che manca e che conseguentemente ci mette addosso, per esempio, tantissima ansia, ma anche una percezione di inadeguatezza e di non farcela mai. Allora il pensiero positivo in realtà è un pensiero che si focalizza anche in un evento avverso. Si focalizza, per esempio, è successa una cosa terribile, ma noi siamo ancora qui. Adesso ce la possiamo fare. La prima buona notizia è che siamo sopravvissuti, no, a questa cosa molto brutta. Allora, voglio leggervi un messaggio di Vittoria che ci scrive: mio nipote, che ha un nonno danese, mi dice che quando passa le vacanze in Danimarca, l'altro nonno ad ogni errore gli tira i capelli. Ma non lo mandi più. Gli dobbiamo far leggere il libro, allora. Da questo nonno danese, ma sarà un vero nonno danese? Grazie Vittoria per questo messaggio. Noi andiamo a Marcello da Bergamo. Tra l'altro nel libro anche parlano di sculaccioni, e quindi non bisogna mai dare sculaccioni, assolutamente non servono, è già un fallimento. Guarda nel che stai momento. Già anticipando la N, eh? Sì, per cui le parla, e questo nonno danese tira i capelli. È completamente per non dare fuori dalle regole del metodo educativo danese. Cancellato il nonno danese, Vittoria. Marcello, andiamo a Bergamo con lui. Benvenuto. Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo semplicemente dire che io ho iniziato da poco un percorso di allenatore sportivo in una società dove le squadre sono tesserate e fanno i campionati del CSI. E regna una confusione pazzesca, soprattutto fra i genitori, un po' anche da parte delle società, ma fra i genitori è una cosa da non crederci quando si va alle partite. Cioè, succede praticamente in Italia, il calcio, detta legge, succede un po' come nel calcio, che si vede rosso, no? Se quello che succede nella propria squadra è pazzesco. Poi sì, è sempre una ricerca verso la vittoria e il risultato, mentre le direttive del CSI, che queste cose le sa bene perché ci sono pediatri, fiore di esperti che l'hanno, sono totalmente contrarie, ma non vengono tenute, praticamente non vengono tenute conto, un po' anche da parte delle società, ma soprattutto quando spieghi ai genitori: guardate che nei campionati del CSI è meglio perdere. Marcello, un lei bravo. racconta una situazione di cui ci siamo occupate anche diverse volte con Alberto. Alberto, vuoi fare un commento? Ma credo alla che quello che Marcello ci sta dicendo lui da allenatore è proprio questo: che cosa ci stiamo aspettando dall'attività sportiva dei nostri figli? Che si divertano, che imparino regole prosociali, che imparino a rispettare le regole in un contesto di gruppo, o che siano il numero uno? Se siamo in quella direzione lì, che siano il numero uno, stiamo effettivamente spostando l'obiettivo educativo dal essere coinvolto in un'attività interessante, divertente e formativa, a avere in casa un campione. Ecco, questa cosa può di sicuro non fare bene ai nostri figli. Allora, PARENT, questo è l'acronimo che raccoglie il segreto, la ricetta della felicità descritta in questo manuale scritto da due autrici, una americana e una danese, in sostanza, una giornalista con specializzata in psicologia e una psicoterapeuta. Il metodo danese per crescere bambini felici, che è appena pubblicato da Newton Compton, ne parleremo, ma parleremo anche di come educare i nostri figli, non solamente alle emozioni, a crescere sani e felici, ma anche ad avere un buon rapporto con il denaro. I soldi non fanno la felicità, ma in qualche modo aiutano, e ne parliamo naturalmente anche qui a Cuore Denari, in questa puntata dedicata all'educazione dei nostri figli. Prima andiamo ai mercati, poi torniamo insieme. Intanto forza con la ricetta della felicità e con le vostre esperienze, perché no? In Danimarca, a tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Siamo ritornati insieme, oggi stiamo parlando di felicità qui a Cuore Denari, il detto lo ricorda chiaramente, se i soldi non fanno la felicità, voi siete d'accordo? Però insomma non hanno mai reso triste nessuno, insomma in qualche modo aiutano, per questo tante volte, in tante occasioni insieme a Deborah nelle nostre trasmissioni cerchiamo anche di parlare dell'importanza di avere un rapporto felice con i propri soldi, e forse per essere davvero felici è importante iniziare questa relazione fin da piccoli. Alberto, che ne pensi? Ma in generale, educare, insomma, mica tanto. Nei quattro. Io quattro. Allora, per dare dei consigli ad Alberto, ma anche a tutti i nostri amici all'ascolto, parliamo di educare i bambini all'uso, anche alla relazione con i nostri denari. Voi ricevevate la paghetta, la state dando ai vostri figli? Come sta andando? Date importanza dell'importanza della paghetta, però ha parlato anche una nostra amica che voi conoscete molto bene. Vediamo un po' se la riconoscete. La cosiddetta paghetta ai figli genera un certo dibattito tra le mamme e i papà. La cifra da riconoscere è un tema interessante, perché spesso quantificarla è difficile e scatena molte discussioni. A quale età si inizia a concederla? E quanto sganciare? Molti riconoscono piccole cifre se i bambini aiutano in casa o comunque se si impegnano in lavoretti casalinghi. Insomma, una sorta di piccolo stipendio. I soldi non crescono sugli alberi e si guadagnano duramente. Se riconosceremo un euro ogni volta che ci aiuteranno ad apparecchiare e sparecchiare la tavola, o si incaricheranno di rifare il letto e tenere in ordine la propria stanza, beh, avremo costruito un pezzetto della loro autostima. L'avete un po' riconosciuta? Beh, Alberto si riconosce, nello stile, nel modo di presentare, raccontare le cose. Vi lascio un po' lì, ditemi un po'. Ha scritto anche un libro, la conoscete, la sentite tutti i giorni. È una giornalista che si occupa di denari, alta, bella, simpatica, ha un'amica straordinaria che è la donna di cuore. No, sto scherzando, è un estratto dal libro di Donne di Denari della nostra Deborah, che torna domani. E noi di paghetta parliamo anche con un altro amico di Cuore Denari che è collegato con noi, Antonio Caielli, educatore finanziario. Ciao Antonio. Ciao, buongiorno Nicoletta, parliamo di felicità, quindi felice di risentirti. Oh, bene, senti Antonio, oggi ti chiediamo qualche consiglio per educare i nostri figli all'uso e al valore del denaro, ci stai? Ah, guarda, con molto piacere, è forse uno degli argomenti preferiti quando lavoro con i ragazzi, con le loro famiglie, io adoro parlarne con loro. Quindi ti rendiamo felice, vedi, quando una domanda basta rendere felici. Allora, riprendiamo un po' il discorso della paghetta, abbiamo sentito sì. Un breve estratto dal libro, perché anche Deborah ne parla nel suo libro Donne di Denari. Può essere il giusto strumento, lo è sempre? Che cosa ci racconti? Ma la paghetta è uno di quegli argomenti sempre verdi, un po' come il panettone e il pandoro, no? La vacanza al mare e in montagna. Nel senso che da sempre, da quando i ragazzi sono diventati i nostri, diciamo, attori economici, perché hanno cominciato a spendere soldi da solo o a orientare i soldi spesi dalle loro famiglie. Allora da loro cominciamo a chiederci e si dibatte se sia o meno uno strumento educativo. Vediamo cosa dicono per esempio le ricerche. Pensate, cominciano a esserci da alcuni anni alcune attenzioni un po' fuori dalle solite ricerche che sono ricchi, poveri, donne, uomini, eccetera. Ad esempio due scienziati di Londra hanno scoperto che, ragionando sulla paghetta, che pare essere uno strumento controproducente deleterio per la crescita dei figli. Si dice che la paghetta rende dipendenti e diminuisce l'abitudine al risparmio. Ecco, dicono loro. Sarebbe meglio, secondo loro, invece dare un compito da portare a termine, quindi un pagamento. Contemporaneamente, nello stesso momento, dall'altra parte dell'Europa, un'azienda di natura finanziaria dice il contrario. Gli dice no, e invece se vuoi un figlio che non sarà dipendente, che non sarà indebitato, che avrà capacità di pianificazione, dagli la paghetta. Succede un po' come quando si sentono due pareri, due medici diversi, uno ti dice A, l'altro ti dice B, e poi tu ti trovi una terza soluzione. Però c'è una bellissima ricerca che dobbiamo condividere con tutti, lo fa un professore inglese, che io adoro, che ha scoperto una cosa bellissima. Ha scoperto che le cose materiali che compriamo, questo dobbiamo spiegarlo ai nostri figli, le cose materiali possono piacerci tanto, ma in realtà sono sempre separate da noi. Mentre le esperienze diventano una parte di noi, quindi noi siamo un po' la somma delle nostre esperienze. Cosa dice questo professore? Si chiama Gilovic. Dice che spendere i soldi in cose ci dà un piacere, ci dà una felicità breve, effimera, mentre spendere soldi in esperienze, in qualcosa che rimane attaccato a noi, in viaggi ad esempio, allora ci danno una felicità persistente. Questa è una bella informazione nell'orientare in un certo senso il modo in cui spendiamo i soldi da condividere con i figli. Però la paghetta. Allora, la paghetta, iniziamo subito. Regola numero uno, non c'è una regola che valga per ogni famiglia. Quello che sicuramente conta è spiegare che cosa la paghetta è e che cosa la paghetta non è. Può essere uno strumento educativo, però la differenza lo fa, l'accompagnamento che noi adulti di riferimento riusciamo a dare loro. Sì. Allora concordiamo che cosa serve. Serve solo per le cose superflue? Ci sono dentro i soldi delle ricariche telefoniche? Ci sono quelli dell'uscita fuori? Ti faccio una proposta, io l'ho fatta fortissimo questo esempio, ma perché non lo possiamo scrivere un piccolo contratto di paghetta? A partire da che età, quindi? Quando il bambino sa leggere e scrivere? Allora, questo è un altro tema, nel senso che da quando, anche qui non ci sono regole, in molti paesi, ad esempio il caso dell'Australia, sto pensando, si inizia molto presto, lì è molto diffusa l'abitudine a darla intorno ai 5-6 anni, ma perché? Perché lì si confonde un po' con la conoscenza diretta del denaro e anche con l'invito a risparmiare quel denaro, perché loro ne spendono meno. Sì. Ora, è chiaro che anche qui la sensibilità va lasciata ai genitori, però a un certo punto se un genitore si rende conto che per il nostro figlio è importante risparmiare denaro e non spenderlo tutto, cioè ha capito che è importante questo, ha capito che i soldi servono per ottenere delle cose nei negozi, ha capito che ad esempio se spende tutti i soldi oggi significa che non ce ne sono più fino alla prossima volta, ma quello sì che è un buon momento per cominciare a fargliela conoscere. D'altro canto teniamo conto che esiste un percorso, un processo evolutivo, ne parlate molto spesso, tra l'età scolare e l'età preadolescenziale, in cui succedono delle cose, e quello, a mio personalissimo avviso, non lo dicono le ricerche qui, è un ottimo momento in cui si può dare con regolarità, se si riesce a dare con regolarità, dei soldi da gestire, perché a quest'età i ragazzi cominciano a essere più responsabili del fatto che si cresce, vogliono fare cose con meno ingerenza da parte dei grandi e vogliono essere autonomi. Allora, Antonio, ogni famiglia poi si adatta e non ci sono regole universali, ma 2/3 indicazioni per i nostri ascoltatori per gestire la paghetta, per farla diventare anche un po' uno strumento educativo. Educativo. Prima di tutto la cadenza. Tanti chiedono stesso, ma con quale cadenza farla? La cadenza è importante perché rispetta un po' i nostri tempi. Noi adulti, abituati a un lavoro pagato mensilmente, non sempre se siamo dipendenti, ma in generale, quello è il nostro tempo. Per i ragazzi la cadenza della loro vita, diciamo, si avvicina molto a quella scolastica, e quindi la settimana potrebbe essere una dimensione corretta. Ok, quindi una settimana. Regola numero due? Regola, non voglio chiamarle regole, indicazione, orientamento. Indicazione. Allora, la seconda cosa, fargli decidere loro. Cioè, noi siamo sempre presenti, spieghiamo loro, condividiamo le scelte che fanno, ci ragioniamo, la scelta rimane loro. Se la scelta è sbagliata, va bene. Innanzitutto è sbagliata per noi. Per loro in quel momento non sarà mai sbagliata, perché hanno una loro razionalità. Fare sbagliare. E tuttavia, naturalmente, se si sbaglia, vedere le conseguenze. Quindi certo. Poi non ce ne sono più. La regola numero 3, indicazione numero 3? La regola numero 3 io direi usare il gioco, perché guardate, quando usiamo è un po' danese anche Antonio Caielli, eh? Ma sì, io se rinasco voglio nascere in Danimarca, ve lo dico. Ma sai che i nostri ascoltatori non sono tanto convinti che poi sia un paese felice, ecco. No, diciamo che pensiamo a questo, quando insegniamo a usare una paghetta, chiedo scusa, stiamo insegnando che cos'è l'economia, perché l'economia dal greco sono le regole della casa, cioè le risorse sono poche, dobbiamo usarle bene. Quindi è importante cercare di fargli capire che le regole sono i denari sono questi e noi dobbiamo farcele, il gioco è questo, metterla sul gioco. E ancora ritorniamo alla prima parola, la prima indicazione del metodo danese. Antonio, torna presto a trovarci con Deborah, anzi io mi vedo già un super manuale con Antonio Caielli, Deborah Rosciani, Alberto Pellai, che arriverà in Danimarca, anche in Danimarca, in cima alle classifiche. Antonio, un abbraccio, grazie, saluti anche da Deborah. Anche a voi, ciao a tutti. Allora, noi eravamo rimasti alla E. Mamma, un uccellino volava, poi si cantava sulla mia spalla, a me, si è fermato qui, c'è stato un'ora, un uccellino. E lei mi ha detto, ah, figurati, chissà che mi credevo. E tornò a parlare con lo zio. Ma era cattiva la nonna? Non le piacevano gli uccellini? No, non era cattiva la nonna, le piacevano gli uccellini. Ma non era lei, ero io. Ero io che non le avevo raccontato bene quello che avevo sentito. Che non le avevo fatto sentire bene l'emozione che avevo provato. Rimasi talmente male che dissi, ma ci sarà nel mondo uno che di mestiere trova le parole giuste, che le sa mettere in un modo che quando gli batte il cuore a lui, gli fa battere il cuore anche a quell'altro. Quel giorno decisi di fare il poeta. Bello, per il quarto stimolo ci ha aiutato Roberto Benigni, l'estratto che avete sentito lo abbiamo preso dal film La tigre e la neve, e qui parliamo della E, è una E maiuscola perché richiama una parola che è molto cara anche a te, Alberto, e che fa la differenza in realtà nella vita di tutti noi. Si tratta di empatia e tra l'altro ne parli a lungo nel tuo libro L'educazione emotiva. Perché l'empatia è così importante? Perché l'empatia è la base della comunicazione emotiva e della relazione. Noi nelle relazioni siamo prima di tutto emozione, e se riusciamo a riconoscere le emozioni degli altri quando sono con noi e quali emozioni si attivano in noi quando siamo con gli altri, riusciamo a raggiungere anche un equilibrio e una consapevolezza e conseguentemente anche a funzionare molto meglio. Nasciamo empatici o lo diventiamo o siamo educati noi all'empatia? Noi abbiamo un cervello che è predisposto all'empatia, abbiamo i famosi neuroni mirror che sono stati studiati proprio da Rizzolatti, che abbiamo avuto qua, esatto. Grande. E di conseguenza noi siamo veramente soggetti basati su capacità, potenzialità e competenze empatiche. Chiaramente l'empatia deve essere allenata e poi deve coltivata. Essere educata, e quindi i genitori hanno un ruolo fondamentale nel sentire quello che sentono i loro bambini, validarlo, cioè renderlo valido. Pensate a quante volte ai maschietti diciamo sei un maschio, non puoi, devi piangere, esatto, non devi sentire la tristezza, oppure i veri uomini non hanno mai paura di niente. Ma se lui sta sentendo la paura, quella paura ha un valore. È come se noi avessimo una persona che ha paura di volare di fianco a noi, ci voltiamo e gli diciamo sei un idiota perché hai paura di volare, di salire su un aereo. Il nonno danese gli tirerebbe i capelli. Andiamo a sentire invece che cosa succede sulle strade, sulle autostrade, perché sennò i capelli mi tira Filippo Aureggia tra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Cuore e denari. Siamo ritornati insieme, qui si parla di felicità, una parola, parent, un acronimo che racchiude gli ingredienti di questa formula che cioè, aiuta i genitori a crescere figli felici, e quindi figli felici saranno adulti felici, a loro volta, nel caso diventassero genitori, alleveranno bambini felici e via via via via via via. Alberto, ci mancano la N e la T, rapidamente, prima di dare la parola a Stefano e a Elisa, e poi abbiamo una sorpresa finale. La N è per no ultimatum, e viene spiegata dentro al libro come rinunciare alle punizioni corporali come metodo educativo, e sentire che quando usiamo punizioni corporali in realtà sconfiggiamo anche un po' il nostro ruolo di adulti. La T è forse la parola che a me è piaciuta di più, T come togetherness, cioè stare tutti insieme, coltivare la dimensione dell'intimità, e viene approfondita attraverso la passione che i danesi hanno per il canto corale e il canto di famiglia. Ogni volta che si riuniscono c'è sempre un momento in cui tutti cantano insieme. Stefano da Firenze ed Elisa da Genova, buongiorno Stefano. Buongiorno. Buongiorno a lei. Lei canta? Sì. Canto? Sì. Qualche volta ho cantato, prima facevo Stefano, parte di un coro sempre. Vede, fa. Vede, lei c'era quasi, bisogna cantare, questo ci ha detto Alberto. Allora. Certo. No, io volevo semplicemente tanto fare molti complimenti a voi per il programma, che è veramente molto carino e dà un sacco di informazioni. Grazie. In linea generale tratta argomenti molto belli. Volevo aprire una piccola parentesi sull'educazione in generale dei genitori, ovviamente, che magari tendono a non dare troppi contentini, in gergo, ai ragazzi che crescono. Infatti io ho avuto un'educazione, sono molto giovane, ho 24 anni, sì. Ho avuto un'educazione da parte di mio padre soprattutto, che non tendeva molto a gratificarmi per le cose magari troppo banali. Con questo è venuto fuori, diciamo, nel mio carattere, che io sono una persona molto ambiziosa, però tendo molto a cercare approvazioni da parte delle persone che mi stanno intorno. Certo. Allora, quindi, intanto un'approvazione gliela do io, Stefano, bravo, vado avanti così, ma io sono una mamma chioccia. E Alberto, è vero, perché Stefano, la gratificazione ci vuole, ci la aiuta gratificazione a ci vuole, e credo che Stefano un po' ci faccia anche capire quanto era importante il consiglio numero 2 legato alla lettera A, dove le lodi sul percorso, cioè è proprio importante per un padre sottolineare lo sforzo e l'impegno di un figlio verso il raggiungimento di un obiettivo, e spesso tra l'altro i papà non la sanno fare questa cosa, quindi è proprio interessante anche che sia stato un uomo a raccontarcelo. Elisa, buongiorno da Genova, benvenuta. Grazie, grazie mille, complimenti per il programma, perché è veramente molto bello. Guardi, io dopo tutti questi complimenti, dato che nel libro si dice che i complimenti non devono essere un po' misurati, e soprattutto abbiamo parlato un po' di scarabocchi prima, allora mi sento un po' in imbarazzo, ma a me fanno molto piacere e li condividerò con Deborah. Grazie. Elisa, venendo alla sua domanda. Allora, la mia è, sostanzialmente sono due domande. Allora, quanto può inficiare? Allora, premetto che io e mio marito siamo due carrieristi. Mio marito è un ex bocconiano, grande manager nell'Liechtenstein, quindi non c'è mai. Sì. Io sono un hotel manager, perché la mia famiglia ha alberghi da 100 anni, ingegnere gestionale. Mia figlia è sempre con la tata ed è molto difficile riuscire a ritagliarci dei momenti per tutti e tre. Quindi la prima domanda potrebbe essere quanto la carriera, e quindi il non stare insieme, può inficiare negativamente, certo, su un bambino. E la seconda, che sono già domande da mille domanda, punti. E la seconda domanda, quanto può inficiare il carattere, ovvero sulla felicità dei bambini. Io sono una persona molto propositiva e sono molto sorridente. Mio marito, che vive in Liechtenstein, in un'azienda tedesca, cosa succede? Vedi, l'ambiente conta. Musone, molto poco sorridente, molto poco, come posso dire, comunicativo. Sì, l'ha descritto bene Elisa. Alberto ha preso nota. Alberto, beh, intanto genitori a noi un po' assenti, un papà che di carattere Musone non è tanto empatico. A noi piacciono i sorrisi, e quindi direi che è molto molto importante, che proprio l'espressione del viso, lo dicono anche le neuroscienze, parla a volte ai bambini molto più delle nostre stesse parole. Quindi noi raccontiamo la bellezza dello stare al mondo, la bellezza dell'essere nel qui ed ora, anche attraverso quello che mostriamo attraverso le nostre espressioni. Ci scriva poi per i genitori assenti, Alberto, che richiede anche una trattazione un pochino più approfondita, ma immagino che la nostra amica, che già si pone questo problema, abbia intuito che anche quello può essere un problema. E a proposito di sorrisi, lei non ci vede, ma noi abbiamo un sorriso che ci gira dietro le orecchie. Salutiamo Jessica Joel Alexander, autrice del libro di cui cui abbiamo parlato oggi. Ciao Jessica. Ciao, buongiorno. Grazie Ciao. Per essere con noi. Tu adesso sei proprio in Danimarca, vero? Sì, sono appena arrivata. Ti sei trasferita perché tu vivi in Italia. Allora, complimenti per il libro, ne abbiamo parlato in lungo e in largo, come si dice qui. Abbiamo raccolto anche un po' le testimonianze dei nostri ascoltatori. Tu che sei americana, sei andata a vivere in Danimarca, hai sposato un danese e vivi in Italia. Abbiamo raccontato tutto il metodo danese, ma adesso ci dici in chiusura che cosa, dato che le conosci, apprezzi delle mamme italiane? Ci fai un bel complimento? Certo, certo. No, ma io sono molto legata all'Italia e questo è un amore grande per me. E io vedo le mamme italiane che sono molto amorevole, ha una passione fortissima, proprio è nata per la genitorialità, una grande attenzione anche per l'educazione alimentare dei propri bambini, che è un fatto molto importante. Io dico sempre, perché ormai ho visto tantissimi diversi metodi, io sono americana, ho vissuto in tanti diversi paesi, e io dico sempre, essere genitori è il mestiere più difficile del mondo e nessuno ha la bacchetta magica. Quindi io dico, ma questo fatto che Danimarca è sempre votato più felice, io sono convinta che se noi possiamo imparare anche una o due cose da questa filosofia, può cambiare nostro vita, certo, non solo come genitori ma anche come persone. Allora cerchiamo di mescolare le buone pratiche per crescere figli sereni. Grazie a Jessica Gioella Alexander, grazie ad Alberto Pellai, a Filippa Oreggia, a Laura Vanossi, a Marco Lombardo. Torniamo perché ci sarà anche Deborah domani.